Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Sento il mare dentro una conchiglia. Estate, l'eternità è un battito di ciglia. Sento il mare dentro una conchiglia. Estate. Oggi è il 29 luglio, manca un mese e una manciata di giorni all'inizio della scuola. È arrivato il tempo di fare i compiti delle vacanze. Tormentone per chi li deve fare e chi ha l'ingrato compito di ricordare di farli. 800 24 00 24 per sapere come convincere, come aiutare i figli a fare i compiti. Se figli non ne avete, chiamateci ugualmente per raccontarci come ve la siete cavata voi ai vostri tempi, li facevate, li copiavate e soprattutto alla luce della vostra esperienza che cosa consigliereste. Ma nel frattempo come convincere i bambini e anche i ragazzi ad aprire libri? A volte anche solo questo è un successo. In linea con noi Alberto Pellai, medico psicoterapeuta dell'età evolutiva. Ciao Alberto. Ciao Nicoletta, buongiorno a tutti. Alberto Pellai ci suggerirà tempi e modi per ottenere risultati senza lasciare feriti sul campo. Ma Alberto, io vorrei partire da qua. Ti ricordi qualche giorno fa il ministro dell'istruzione Maria Chiara Carrozza ha spezzato una lancia contro le centinaia di versioni di latino, i problemi da risolvere, equazioni e disequazioni imposte agli alunni durante le vacanze estive, suggerendo compiti magari meno compiti, meno vacanze, ma no, più tempo anche per la lettura o compiti più di qualità, compiti che non debbano essere svolti meccanicamente o magari copiati, ma con più attenzione. Che cosa ne pensi? Sicuramente tutti i ragazzi avranno detto santa subito, le mamme si saranno sentite veramente un'eroina. Le mamme anche si saranno sentite sollevate, perché spesso tocca a noi ricordare ai figli di fare i compiti e poi dobbiamo dare, sai, poi loro non vogliono farli, allora si media e alla fine diventa una bella fatica, quindi lettura più che compiti. Tu che cosa ne pensi? Ma io credo che ci siano da considerare due variabili. Una è a che cosa servono le vacanze in concreto e il secondo aspetto è che cosa significa tenere il cervello allenato in modo da non ritrovarsi a settembre in una situazione che è quella di una ripartenza totale su tutti i fronti. Una ricerca, tra l'altro recente statunitense, quantificava in un tempo quasi pari ad un mese il tempo necessario agli insegnanti per riportare i propri studenti al ritorno dalle vacanze un po' al livello di partenza, quello che avevano lasciato nel mese di giugno. Direi che bisogna trovare una giusta combinazione tra bisogno di riposo, bisogno di mantenere un allenamento che lasci proprio un po' tonico, più che il cervello, la competenza del ragazzo poi di ributtarsi velocemente nei compiti di apprendimento, però secondo me il tempo della vacanza deve essere anche un tempo proprio di coltivazione delle passioni, quindi questa dichiarazione della ministra che diceva dovrebbe essere un tempo dove i ragazzi entrano anche nel mondo della lettura, esplorano libri, titoli, spazi di narrativa che magari non hanno modo e tempo di esplorare durante l'anno, a me sembra un'ottima indicazione. 800 24 00 24, se volete intervenire potete scriverci al 349 238 6666, seguirci su Twitter e su Facebook. Da Facebook leggo: quando ero piccola non si sfuggiva alle grinfie della mamma, maestra elementare. Adesso che sono mamma io, la maestra in pensione, torno in campo per seguire i nipotini. Qui in studio con me ho il piacere di avere il professor Giuseppe Alfredo Iannoccari, neuropsicologo e presidente di Assomensana. Buongiorno. Buongiorno a lei, Nicoletta. Allora, i compiti adesso ci sono, bisogna farli, manca tutto sommato poco all'inizio delle scuole, un mesetto è abbondante, e quindi lei dovrà oggi suggerirci il metodo per avere la massima resa con il minimo sforzo. Ce la faremo? Far tirar fuori le grinfie di cui parlava l'ascoltatrice prima. Tirar fuori il metodo sarà un po' difficile perché, come diceva il collega Pellai, il tempo delle vacanze è un tempo in cui tutto si dilata, in cui si perdono gli orizzonti, in cui si destruttura il tempo e tutto diventa, diciamo, meno strutturato. Per cui quei ritmi che noi avevamo prima, dove ci si alzava ad una certa ora, si andava a scuola, si facevano i compiti, eccetera, vengono meno, ci si alza più tardi, si fanno Si fa colazione con più tempo, poi si va al mare, si fanno vedo le passeggiate in montagna. Vedo che ha voglia di vacanze anche lei, le fa fare i compiti ai suoi bambini, sì, necessariamente si impone perché il periodo è effettivamente troppo lungo. Il periodo delle vacanze è un ottimo periodo per tutto quello che si diceva prima, ma dal punto di vista cognitivo effettivamente si rischia di perdere quello che si era acquisito durante il tempo. Andiamo a Trieste, c'è Rita, 800 24 00 24. Rita, buongiorno. Buongiorno, io sono un'insegnante elementare e non do i compiti durante le vacanze. Li lascia belli liberi, e cosa dice ai suoi bambini? Dico che è vacanza per me ed è vacanza anche per voi. L'unica cosa che assegno è la lettura. Raccomando di leggere. E mi sono resa conto che pur non dando i compiti durante le vacanze non c'è una grande differenza. Un tempo li davo, poi mi sono trovata nel ruolo di mamma e a dover appunto fare il cerbero per fare i compiti alle mie figlie, e mi sono resa conto che quasi quasi si creava un conflitto tra genitori e figli durante l'estate, per cui ho deciso di non dargli più. Ho visto che comunque una rinfrescata di quello che si fa e si è fatto durante l'anno precedente la si fa a settembre, comunque. E quindi io lascio i miei alunni in pace. Grazie Rita, maestra che non dà compiti. Buone vacanze, Rita. Grazie, grazie. Andiamo a leggere qualche riga del compito di Rudy. Sinceramente sono rimasta stupita. La ragazza ha una notevole proprietà di linguaggio. Continua con gli insormontabili ostacoli che minacciavano il successo finale. Credo che Rudy dovrebbe andare direttamente all'università. C'è solo un problema, che lei dovrebbe andarle dietro. Quando la signora Robinson aiuta Rudy a fare un compito, riesce a scatenare tutte le capacità creative di una figlia undicenne. Quando l'aiuta lei a fare i compiti, salta fuori l'ubiquo senso di malinconia che scende inesorabile sui guerrieri. Potrei sapere quando rientrerà sua moglie? Chi nella vostra famiglia ha il compito di far fare i compiti e come ve la cavate in questo compito? Sembra uno scioglilingua. 800 24 00 24, datevi un voto. Alberto. Ma direi che una delle cose che succede tipicamente nelle famiglie è che quasi sempre le mamme sono coloro che presidiano tutta la zona dei compiti, non solo quelli delle vacanze, ma proprio anche i compiti durante l'anno. Rispetto al periodo scolastico, i compiti delle vacanze riducono nelle mamme, se vuoi, l'ansia da prestazione, cioè molte mamme quando fanno studiare i figli o fanno fare i compiti durante l'anno scolastico sono davvero molto o troppo attente al fatto che il bambino faccia tutto perfettamente, non sbagli niente. Forse durante le vacanze sono un po' più elastiche, un po' più flessibili, un po' meno attente. Personalmente io non sono d'accordo con un genitore che è così proprio sul figlio, alle spalle del figlio, a verificare e controllare tutto. Credo che il ruolo principale del genitore sia quello di sostenere il figlio nell'organizzazione logistica, nella programmazione dei propri compiti, dei tempi, delle lezioni, ma non nel controllo e nella verifica di come il figlio sta facendo il compito. Cioè la mamma maestra, secondo me, è una mamma molto controproducente. Professor Iannoccari, dimenticherai tutto, è proprio un classico, i genitori minacciano così, no? Ma è davvero così, le vacanze è possibile che cancellino tutto quello che faticosamente i bambini, e parleremo naturalmente anche dei ragazzi, con i debiti, hanno fatto durante tutto l'anno? Naturalmente noi perdiamo le informazioni che non vengono ripetute, non vengono reiterate, quindi una perdita delle informazioni più di dettaglio effettivamente avviene. Rimangono i concetti principali. Quelli si rispolverano, come diceva l'insegnante prima, nella ripresa scolastica, mentre le informazioni più minute invece quelli si perdono, ma è un meccanismo biologico che naturalmente fa perdere le tracce della memoria. Ecco, rispetto al... Lei ci deve dare qualche trucchetto, così noi lo passiamo ai figli, noi andiamo in vacanza e loro studiano in modo autonomo, come suggerisce Alberto. Ecco, per questo è una bacchetta magica. Magari. Magari. Beh, intanto dobbiamo partire dalla motivazione, come diceva anche la professoressa Masson dell'Università di Padova, a prescindere da quelle che sono le strategie, che sono importanti e ne parleremo, ma anche la motivazione è fondamentale, perché è quello che spinge il ragazzo a mettersi sui libri. Allora, la motivazione può essere positiva, io faccio qualcosa perché mi interessa, mi piace, è importante, oppure negativa, lo faccio perché altrimenti... Sì. Ecco, la motivazione che ci spinge a mettere la testa sui libri durante l'estate è quella negativa. Sì. Ecco, dovremmo... È sempre stato così. Allora, varrebbe la pena utilizzare delle strategie molto semplici, come ad esempio quello di rendere positiva la motivazione dando delle piccole gratificazioni. Teniamo conto che quello che riguarda la responsabilizzazione e la pianificazione delle attività è un compito cognitivo che richiede l'attivazione delle aree prefrontali, che fino all'adolescenza compresa sono ancora immature, per cui è vero che si possono responsabilizzare i ragazzi, ma è anche vero che non c'è da aspettarsi quella responsabilità che invece noi conosciamo come adulti, quindi un indirizzo da parte del genitore è necessario. Quindi cerchiamo di motivarli, ma concretamente dicendo che cosa? Senza minacce, ma? Beh, senza minacce, ma cercando di rendere, dare piccoli obiettivi durante la giornata, quindi non studiare tantissimo, ma dare piccoli obiettivi crescenti. Poi è importante che lo studio non venga fatto sotto data, cioè la scadenza prima di rientrare, perché ci sono delle implicazioni negative, ma distribuirlo, infatti c'è una strategia proprio che si chiama studio distribuito, che prevede dei piccoli assaggi quotidiani delle diverse materie che devono essere diversificate. Quanto tempo? Cioè, ci faccio una tabella di marcia. Guardi, adesso è il 29 di luglio, 50 minuti al giorno sono l'ideale, in un momento della giornata ben preciso, dove così come il pranzo e la cena, anche il momento dello studio va strutturato. 50 minuti, Alberto Pellai parlava di 10, non sono tanti 50 minuti con un bambino delle elementari, non starà mai fermo 50 minuti, 50... lo leghiamo al tavolo. Ma 10 minuti effettivamente non riusciamo neanche a riscaldare la concentrazione. Quindi perché il cervello per essere messo in moto ha bisogno di un tempo per essere riscaldato, dopodiché 50 minuti è il periodo massimo in cui la nostra curva dell'attenzione riesce a dare la massima prestazione, la massima performance. Gian Pietro dalla provincia di Vicenza, buongiorno. Buongiorno, eccoci qua. Parole sante intanto da parte dei vostri esperti. Seguo parecchie volte la trasmissione, stavo in macchina trasportando dei bambini dei centri estivi e insieme sorridevamo sulla trasmissione di oggi. Eh sì, che cosa dicevano i bambini? Allora, no compito. No, è il contrario, perché i compiti, giustamente inseriti nella modalità che va bene, è anche proprio un gioco, aggregazione, e soprattutto ci si scambiano le esperienze. Anche noi usiamo il ritmo, quindi quello che diceva l'ultimo volta. Il professor Iannoccari, quindi... un momento giornata della mattina, sì esatto, dalla mattina alle 8 fino al pomeriggio alle 4 inseriamo dalle 2 alle 3 i compiti, un'ora di compiti, e vengono fatti ormai con cadenza regolare. I bambini che arrivano lo sanno che c'è da fare i compiti, e quindi vengono inseriti in questo contesto. Il bello è che fra di loro, appunto, che vengono da diverse esperienze, diverse scuole, si aiutano fra di loro, quindi abbiamo i grandi bambina, che aiutano i piccoli. Brava. La verticalità la fa da padrona. Qualche piccolo che fa finta di niente e dice intanto me lo fa il grande? No, non è possibile, in quanto ognuno ha il suo piccolo compito da portare a casa, quindi noi diciamo minimo 3 pagine o verificabili, chiaramente, non in modo perfetto, giustamente come ha detto anche un vostro esperto. Vengano fatte con coscienza. Dopo c'è il genitore che pretende la perfezione, però magari quello stesso bambino ha più problemi anche a socializzare con gli altri, e quindi si fa capire al genitore, chiaramente, e è più importante allora socializzare, e i compiti vengono fatti lo stesso, ma anche in maniera un po' più allegra, brava, esattamente. Cuor contento il cielo aiuta, Gian Pietro. Ecco, questa è un po', una magia che viene innescata, e soprattutto vedo che funziona. Quindi funziona da grande. In un centro estivo, insieme agli altri bambini, si fanno un po' i compiti di gruppo, perché, no? E vedendo anche l'amico che fa i compiti, uno dice: ma il comune è mezzo gaudio. Brava, potrebbe funzionare anche così. Grazie Gian Pietro, voglio salutare, intanto che aspetto le vostre telefonate all'800 24 00 24, Giacomo Poretti, il bello del trio che ho invitato a partecipare. Grazie Giacomo. Buongiorno, ciao Nicoletta. Senti Giacomo, tu hai un figlio e quindi anche per te è tempo di compiti. Come te la cavi? La passione dei compiti, perché mio figlio ha appena finito la prima elementare e quindi c'è il librone dei compiti durante l'estate. Come te la cavi e come se la cava lui? Allora, devo dire la verità, lui voglia di fare i compiti zero. Ecco, no? Immaginavo. Il papà e la mamma devono faticare continuamente per fargli fare il compito. Poi quando si applica sono bravi, che a me, io non so se, non vi ho sentiti prima, non so se dico una cosa fuori dal coro, ma mi sembra che a sti bimbi li stiamo caricando di compiti. Sai che noi siamo partiti proprio con il... noi siamo proprio partiti, abbiamo iniziato la trasmissione ricordando che il ministro dell'istruzione Maria Chiara Carrozza, che è diventata un mito per i ragazzi, qualche giorno fa diceva meno compiti, più letture. E quindi no. Anche Alberto Pellai, che è in linea con noi, che vi conoscete, è un po' su questa. Sì. Alberto ha sottolineato l'importanza delle vacanze. Alberto, a Giacomo, che cosa diresti? A Giacomo e a tutti i genitori che la pensano un po' come lui? Direi che siamo una piccola comunità che però deve combattere col fatto che i figli hanno in mano questi che sono proprio libri delle vacanze, 120-140 pagine che vanno compilate prima del rientro a scuola, e conseguentemente forse la strategia migliore rimane poi quella del cosiddetto studio distribuito. Quello che fanno i miei figli, compilano delle lunghe tabelle a inizio vacanze dove considerano quanti sono le pagine dei loro libri delle vacanze, contano i giorni effettivi in cui potranno fare i compiti e con una divisione decidono qual è il numero medio di pagine del libro che devono essere fatte ogni giorno. Quindi scusami, ma vi rendete conto che il militare non è stato abolito? Perché io facevo così, segnavo ogni giorno sulla stecca i giorni che mancavano, per cui... Ma io non lo so, io dico una cosa, secondo me i nostri figli dovrebbero un po' abituarsi alla noia, perché la noia mette in moto delle cose creative, e pretendiamo troppa eccellenza dai nostri figli. Siete d'accordo? Assolutamente Giacomo, io sono contenta, però ti devo dire che le mie ragazze hanno finito gli esami dell'università e quando sono grandi non ho più dovuto dire studia, per cui mi sono tolta un bel peso e adesso vedo tutti gli amici che hanno figli piccoli alle prese o con i compiti delle vacanze, coi debiti, e io vi guardo e dico che bellezza, sì, devono annoiarsi. L'ozio, quello romano. Esatto. Senti Giacomo, tu tanto i compiti non li facevi e comunque no. Siamo cresciuti ugualmente. Esatto. Ecco. Io mi ricordo che finiva la scuola, ci davano qualche compito, ma noi ci buttavamo dentro all'oratorio, per cui alla fin fine... Dai, alla fine io speriamo. Non voglio fare il qualunquista, no, però. Dai, io speriamo che me la cavo. Senti, esatto. Un abbraccio, Giacomo Poretti. Grazie, Giacomo, che sei intervenuto. Grazie, mi ha fatto davvero piacere. Grazie a tutti voi. E buone vacanze. Buone vacanze. Abbassi i compiti e buon ozio. Alessandro da Bologna, grazie. Alessandro? Buongiorno Alessandro, sta bene? Benissimo. Volevo intanto un saluto a lei e ai suoi ospiti. Grazie. Volevo intervenire sull'argomento, due piccole indicazioni. Allora, la prima è una provocazione più che un'indicazione, e cioè noi abbiamo ragazzi che stanno a casa da metà giugno fino ai primi di settembre, stanno quasi 3 mesi liberi a galleggiare nell'estate. In realtà, considerato un po' quella che è la vita di tutti i giorni, forse sarebbe meglio ridurre un attimo, e qui mi tirerò addosso l'ira un po' di tutti, il periodo delle vacanze. Eh sì, è vero. Ma non ridurlo, diciamo, in modo non giustificato, cioè fare una vacanza tout court, non so, da fine luglio è tutto agosto. E poi magari usare questi 4-5 settimane per fare durante l'anno, raccogliere quelle attività tipo, non so, la parte creativa, il disegno, la musica, un po' di inglese, un po' di informatica, che possono tenere sì il ragazzo applicato e attivo, ma non in modo apprensivo o continuativo, come può essere una matematica, come può essere eccetera. E questa è la prima parte. E la seconda? La seconda parte, io ho visto che coi miei vengo a casa con i libri dei compiti, la prima settimana sono carichi a palla, ma arrivano a pagina 45-50 e dopo a scemare fino dopo al delirio assoluto. Quindi dicevo, magari non fare un libro classico dei compiti da pagina 0 a pagina 120-150, sì, dare magari delle dispensine di 3-4 pagine a tema, distribuite nel tempo, quindi non so, magari la prima settimana facciamo la matematica, la seconda settimana facciamo italiano, poi in modo da stimolare proprio la, perché io ho notato che con i ragazzi quello che stimolo è il fronte del libro, la parte, la copertina, il lucido, le belle immagini, loro hanno questo stimolo ad analizzare, ad approfondire, dopo gli passa chiaramente dopo 5-6 pagine. Quindi magari lavorare anche su questo aspetto della forma del professor Iannoccari, molti suggerimenti da Alessandro. Sì. E sono abbastanza in linea, perché allenando alcune funzioni cognitive, magari altre se ne sviluppano quelle che ci servono. Esatto, due provocazioni in realtà, due punti importanti da considerare. Intanto, nel primo, la riduzione del periodo di vacanza potrebbe essere, diciamo, potrebbe riprendere alcune settimane durante l'anno in cui approfondire degli hobby eccetera, in modo più strutturato rispetto invece alla destrutturazione che avviene durante le vacanze. Poi, per quanto riguarda la metodologia per lo studio estivo, e vale molto di più fare dei test di riepilogo, perché si è verificato attraverso delle ricerche ormai consolidate che piuttosto che leggere, ripetere, creare immagini e usare altre strategie cognitive, vale molto riprendere i punti chiave di quello che si è studiato attraverso dei test, delle frasi incomplete eccetera, come quelle che ci sono alla fine del capitolo dei libri degli studi superiori. Questo funziona molto di più per sedimentare e annoia di meno, perché il ragazzo non deve leggere e ripetere, ma deve soltanto riprendere quello che aveva già incamerato per dare le risposte. Sempre meglio al mattino? Allora, al mattino, perché anche l'attenzione, la concentrazione, sì, la memoria hanno i loro tempi, e quindi le ore, i momenti d'oro. Va meglio al mattino o ciascuno si deve scegliere il... Guardi, grazie per la domanda, perché metto in luce due punti fondamentali. Allora, il mattino è ottimo quando dobbiamo sviluppare dei concetti che sono difficili, che devono essere pensati e elaborati. Va bene la sera quando invece dobbiamo ripassare. Sì. Da degli studi recenti si è visto come l'apprendimento serale mantiene le informazioni per l'80%, mentre ciò che viene appreso al mattino lo mantiene soltanto per il 40%. Quindi? Allora, due momenti ottimali. Quello al mattino per studiare, approfondire dei temi che sono, diciamo, nuovi, sì, e quindi tecnici, e richiedono un certo impegno, sì, cognitivo. La sera invece per ripassare ciò che noi abbiamo già elaborato. Il classico consiglio che si dava: ripassa, rileggiti la lezione prima di andare a dormire, ti alzi e la sai. Essere e benessere. Compiti delle vacanze, 800 24 00 24, se siete genitori e siete alle prese con bambini che devono farli ma non hanno tanta voglia, se non avete figli e volete raccontarci che se li facevate, come li facevate e come è andata, 800 24 00 24. Ma potete anche seguirci su Facebook, su Twitter, mandarci un messaggio. Da Facebook è arrivato un messaggio da Corrado che scrive: non ho figli ma vi sto ascoltando volentieri perché mi ricordo il periodo in cui andava a scuola e i relativi compiti delle vacanze. L'unica estate in cui li feci tutti, arrivai puntuale all'inizio del nuovo anno scolastico pronto per prendermi complimenti, neppure me li guardarono. Buona giornata, ci scrive Corrado e noi lo salutiamo. E anche un altro ascoltatore ci scrive: ho più di 60 anni e ai miei tempi c'era solo un bel libro per le vacanze. Era un piacere leggerlo. Ora i bambini, tra mille materie, il nuoto, la musica, il catechismo, sono tartassati tutto l'anno. Ma le vacanze dove sono? Un po' di pausa non ci vorrebbe? E perché non approfittare di questa pausa per leggere un buon libro, come suggeriscono tanti esperti e la state suggerendo voi anche inviandoci messaggi? L'ha sottolineato anche il ministro dell'istruzione Maria Chiara Carrozza. Qua in studio con me ho chiesto aiuto ad un amico, Salvatore Carruba. Ciao Salvatore. Ciao. Conduttore di Un libro tira l'altro, che è in onda, come sapete, ogni domenica alle 13:30. Salvatore, i bambini quando sono piccoli, e parlo dei bambini delle elementari, sono lettori magnifici, infatti abbiamo una media molto alta, leggono più dei loro coetanei europei, ma più i ragazzi crescono e più i libri diventano, no, diventano meno piacevoli, la lettura insomma non piace. È difficile dire ad un ragazzo leggi, anche perché poi deve comunque leggere tanti libri che gli insegnanti consigliano di leggere durante le vacanze, e infatti poi si chiedono aiuto nei siti, nei portali. Che cosa si può fare? Ma certamente la cosa più importante sarebbe liberare la lettura da questo aspetto doveristico, per cui diventa appunto una pena la lettura e non una gioia come dovrebbe essere. Quindi la lettura in estate dovrebbe essere un modo per accostarsi al libro, magari guidati dai genitori, penso soprattutto agli studenti, ai ragazzi un pochino più grandicelli delle scuole medie superiori, del liceo, senza però avere l'assillo devi leggere Pavese, devi leggere questo qui, devi leggere Primo Levi, come usano fare nei nostri licei. Non che non si debba leggere Pavese e Primo Levi, per carità, ma insomma questo aspetto del dovere, questo aspetto dell'obbligo è quello che fa fuggire i ragazzi dalla lettura, e infatti nel nostro paese purtroppo si provoca questo buco nero intorno ai 13-14 anni, che poi dura più o meno fine 18-20, poi le ragazze riprendono a leggere, i maschi purtroppo no. Le ragazze riprendono con più piacere intorno alla fine del liceo, sì, primi anni dell'università. E quindi ai genitori all'ascolto, che cosa possiamo consigliare? Non state troppo addosso ai vostri figli, ma ad esempio proponete di leggere un libro insieme, non insieme sotto l'ombrellone, ma potrebbe, sì, essere... Perché no? Leggere dei libri insieme sicuramente è un modo per scambiarsi delle opinioni, dei pareri, ridere, divertirsi, criticare. Io non condannerei neanche i best seller, perché ci sono dei best seller che possono essere molto gradevoli, piacevoli, possono piacere alla mamma, al papà, al nonno, alla zia e al ragazzo, alla ragazza, e possono essere uno strumento in più per accostarsi anche magari in modo insolito a delle realtà. Non so, penso per esempio... È qua che ti volevo. Ecco. Sì. Io non sono un grande appassionato di Dan Brown, però se un ragazzo legge Inferno quest'estate non fa male, perché alla fine si diverte, parla di Firenze, magari si appassiona a Firenze, si appassiona anche a Dante, scopre che ci sono degli aspetti così magari inventati però divertenti, e come Dan Brown ha fatto aumentare e moltiplicare il numero dei visitatori del Cenacolo a Milano, questo non è un cattivo risultato secondo me. Assolutamente. E un altro suggerimento? Un altro suggerimento per esempio in perché così facciamo anche bella figura con i nostri figli, cioè noi gli consigliamo, dice perché... E un altro suggerimento che mi sento di dare, un altro libro che sta andando molto bene nelle vendite, è il libro di uno svizzero che si chiama Joël Dicker, che si chiama il libro La verità sul caso Henrik Bear. È un giallo, ma è un giallo scritto in una maniera talmente efficace e che ci rende così bene il clima degli Stati Uniti, la tensione dello scrittore, il rapporto con lo sport, insomma è veramente un libro che apre degli squarci insospettabili, e chi legge quel libro con l'assillo di scoprire il prossimo colpo di scena si partecipa anche a tanti altri aspetti che non fanno parte della storia vera e propria, ma che gli permettono anche di, per esempio, ripeto, di capire meglio che cos'è la vita americana e la vita degli Stati Uniti. Senti, tra un po' andrai in vacanza anche tu. Io vorrei capire quanti libri si porta Salvatore Carruba in vacanza. Ma dunque, le vacanze sono dedicate... O se smetti di leggere. No, no, non smetto. Non smetto perché io mi diverto. Non smetto perché mi diverto. Dunque, seguendo gli usi liceali, l'estate è sempre dedicata a un classico anche, quindi quest'estate Omero o qualcosa del genere mi accompagnerà. E poi, naturalmente, i libri lasciati un po' indietro per stare dietro la trasmissione saranno nel bagagliaio dell'automobile. Ecco, allora, un consiglio per noi grandi, per noi genitori. In estate scoprire un classico. Sì, questo secondo me è importante, perché i classici che abbiamo conosciuto appunto sotto l'assillo del dovere riservano poi delle sorprese quando li si legge da grandi, che sono straordinarie. Pensiamo per esempio ai Promessi Sposi, uno straordinario romanzo che nessuno più magari rilegge dopo il liceo, e che invece quando sei maturo ti offre delle emozioni che sono straordinarie e ti fa anche capire molte cose dell'Italia di oggi. Grazie a Salvatore Carruba, ci porteremo un classico in vacanza. Ve lo consiglio. Grazie, grazie. Buona giornata a tutti. Buone vacanze. Buone vacanze e buoni libri. E noi andiamo a Roma, c'è Rita che ci aspetta. Buongiorno. Buongiorno, salve. Allora, io ho due bambini, uno che ha fatto la seconda elementare e l'altro la prima media. E va benissimo leggere, bisogna litigare tutti i giorni per fare i compiti, perché quattro libri sono veramente molto. Quello che volevo suggerire era di organizzare le scuole come fanno adesso un po' i centri estivi, soltanto prolungare il periodo scolastico e far recuperare le materie che sono andate male ai bambini durante l'anno. Quindi invece di finire la scuola l'8 giugno e ricominciare il 20 di settembre, ovvio, dicendo, farlo finire tutto giugno, farlo riprendere il 1 settembre, così i genitori non sono costretti a arrampicarsi fra i nonni e i centri estivi, perché non tutti hanno i nonni purtroppo. E nello stesso tempo il bambino che è andato male in una materia può poter recuperare. Una scuola qui a Roma è stata fatta, hanno fatto un quartiere di Roma sperimentale per 4 settimane con il contributo del Comune di Roma, praticamente hanno fatto un centro estivo, però rimaneva centro estivo, mentre per recuperare anche soprattutto il fatto che ci sono molti stranieri nelle classi che arrivano all'ultimo momento, sarebbe ottimo poter fare un discorso di recupero sia di lingua italiana che di materie per cui sono andate via. Quindi poi rimane il mese di luglio e agosto per farli rilassare finalmente. Vacanza. Questa è la proposta di Rita. Mi sembra una proposta interessante. Intanto grazie per averci chiamato all'800240024. Alberto. Ma quello che dice Rita in realtà è già operativo soprattutto nelle scuole secondarie, per far fronte agli eventuali debiti che alcuni ragazzi hanno accumulato durante l'anno scolastico e che quindi devono poi riparare con un esame a settembre. Molte scuole rimangono aperte, si sono organizzate in modo da permettere alle famiglie di non doversi fare carico loro della preparazione dei figli in modo privato, magari allo stesso tempo il ragazzo che rimane dentro la sua scuola ha più la possibilità di essere proprio individuato nella sua difficoltà specifica e quindi essere supportato e aiutato per recuperare quella parte di metodo oppure quella parte proprio di apprendimento in materia rispetto alla quale non è stato efficace, quindi deficiente, si ritrova con il debito. Per la scuola elementare presumo che il lavoro che ci consiglia Rita, secondo me, è un lavoro che forse andrebbe fatto costantemente durante l'anno scolastico, cioè individuata la difficoltà che il bambino ha in una specifica materia, la scuola magari nel pomeriggio, in un tempo specifico del pomeriggio, dovrebbe proporre ai bambini più in difficoltà la possibilità di rimettersi poi alla pari con gli altri compagni. È un lavoro che possiamo fare anche noi, indipendentemente dai compiti delle vacanze, se vediamo il nostro bambino ha una difficoltà magari nelle materie scientifiche o in quelle umanistiche. Il professor Iannoccari è a vostra disposizione, magari vi insegna qualche trucchetto, qualche gioco, se vostro figlio ha difficoltà. Una difficoltà che si riscontra soprattutto nelle elementari, a fare il classico tema, oppure, oppure la matematica, come succedeva a me, è una bestia nera. Chiamateci 800 24 00 24. Adesso noi andiamo a sentire che cosa sta succedendo sulle strade e sulle autostrade, ma ritorniamo subito dopo insieme. Essere e benessere. abbiamo in linea con noi Monica, che ci chiama dalla provincia di Verbania. Buongiorno Monica, benvenuta. Buongiorno a voi da una provincia di Verbania temporalitica, tremenda. Anche qua è venuto un acquazzone. Mamma mia, oggi ha rinfrescato, perché sennò ci lamentiamo sempre. Se c'è il sole. Speriamo che il cielo non ci cada sulla testa, come diceva Obelix. Ce la faremo, Monica. Assolutamente sì. Dunque, io volevo assolutamente dire leggere. Siamo un popolo di persone che non leggono e purtroppo nelle scuole spesso e volentieri, proprio come diceva prima Carruba, danno dei libri che sono un filo, come dire, pesantino. Ho sentito quel respiro, come ha fatto? Mentre ci sono dei libri stupendi, che parlano di scienze, che parlano di matematica, che parlano di astronomia, che parlano di storia, che uniscono l'utile al dilettevole, sia nel leggere e riuscire ad avere un'espressione e una scrittura più costruita, diciamo, per i ragazzi, sia magari… Me ne dia un paio, aiutarli. Monica, perché intanto che lei si prepara, io le leggo un libro, Tante teste, tante idee, su Facebook. Christian mi scrive: ma cosa volete mai che leggano i ragazzi del terzo millennio? Stanno tutti come zombie attaccati agli smartphone, tablet, con videogiochi messi a disposizione dai genitori. Christian, insomma, li vede persi. Vuole suggerirci due libri, Monica? Ma guardi, io in questo istante sono in macchina, per cui non riesco, ma farò su Facebook. Beh. Però io, mio figlio, per esempio, che adesso sta andando in terza classico, ha letto quei libri di quel matematico o fisico, se non sbaglio, quello che è tetraplegico. Stephen Hawking. Perché lei, Monica, ha il suggeritore, cioè suo figlio. Ho il suggeritore qua di fianco. Vede che noi ci fanno sempre fare bella figura. Allora aspettiamo Monica su Facebook con i suggerimenti, non di Monica, ma del diretto interessato, del figlio di Monica. Ah, più che volentieri. Un'altra cosa, sì. Piccolissima, le parole crociate. Chiediamo al professor Iannoccheri, funzionano o sono passate? Le parole crociate vanno bene anche per i ragazzi? Vanno bene anche per i ragazzi, se piace, ha un approccio diverso rispetto a quello che abbiamo noi. In che senso? Nel senso che possono avere un appeal, cioè una piacevolezza che non corrisponde proprio ai loro gusti, ma va bene perché allena il terzo meccanismo della memoria, che è quella del recupero. Tra mille foto impolverate, vedo così le mie emozioni immortalate, troppi ricordi, momenti incancellabili, mentre una lacrima disegna un sogno. Guarda mio padre qui batti, siamo nei 70, quel pancione mia madre lo porta assai contenta, le foto le elementari. A proposito di compiti, anche noi vi abbiamo chiesto di fare un compito lunedì scorso. Nella puntata dei ricordi del Mi ritorni in mente, insieme al dottor Luigi Ballerino, medico, scrittore e psicoanalista freudiano, buongiorno, che è in linea con noi, buongiorno. Buongiorno. Abbiamo chiesto ai nostri ascoltatori di raccontare un loro ricordo in 100 parole e di mandare i loro testi a essere benessere@radio24.it. Dottor Ballerini, questo è un esercizio che potremmo suggerire anche ai nostri ragazzi. Oh, sarebbe bellissimo, anche perché come scrittore per ragazzi, quando li incontro faccio sempre la domanda: chi di voi scrive? E nessuno alza la mano. Poi dico: ma sì, dai, che lo so che almeno un diario l'avete fatto. Inizia a arrivare qualche timida manina, non solo delle ragazze ma anche dei maschi, per cui i ragazzi lo fanno già a volte di nascosto. Potremmo anche chiedergli e farceli mandare. Dottor Ballerini, ne abbiamo scelto tra i tanti tre. Sì. Allora, i nostri ascoltatori non è la prima volta che gli facciamo fare questo compito e sono sempre stati molto bravi. Anche questa volta sono arrivati dei bei ricordi. Ne abbiamo scelti tre, e ne ho scelti tre perché mi sembravano i più significativi. Sono tutti e tre ricordi d'amore. Il primo è un amore di mamma verso il figlio, il secondo è l'amore di una figlia verso una mamma ritrovata, il terzo è un amore tradito, ma un amore tradito rispetto al quale poi è stata possibile una nuova partenza. Per cui i racconti erano proprio belli, e sono state Giusy, Maria Giovanna e Maria che ci hanno spedito i loro racconti a essere preferite. Devo dire che la mia preferenza assoluta va su Maria. I testi dei vostri ricordi li troverete, il testo di Giusi, di Maria Giovanni, di Maria, li trovate sulla pagina del programma e alle tre ragazze, sono tutte donne, tutte ascoltatrici di Tutte Essere donne. Benessere, ecco, che parlano d'amore, di ricordi d'amore, faremo ricevere a casa tutto il cielo possibile il libro che Luigi Ballerini ha scritto con Benedetta Bonfiglioli. Dottor Ballerini, buone vacanze anche a lei Buone e vacanze a voi. buoni compiti. Facciamoli tutti. Luiglia, da Roma, buongiorno. Buongiorno a tutti. Io sono un'insegnante di lettere e presso la scuola secondaria di primo grado Sì. e devo dire che nei miei anni di esperienza ho visto che ci sono molti effetti positivi su un testo di esercizi proprio per le vacanze. Sicuramente è importante in questo periodo estivo riprendere le energie, fare anche altro, quindi sviluppare anche capacità di senso pratico, capacità proprio di piacere della lettura, di piacere dei propri interessi, come ad esempio la musica. E imparare a suonare uno strumento, comunque imparare sempre qualcosa di nuovo in questo momento di pausa. E questo per me è importante proprio per ricreare una serie di abilità che non siano necessariamente cognitive, legate ai test scolastici o a quello che riguarda poi le competenze da raggiungere. E questo per me è giusto proprio per la Possiamo grande capacità dei ragazzi. dire pochi ma buoni, Luiglia? Sicuramente, sicuramente pochi e indirizzati proprio anche alle carenze che possono avere alcuni studenti e se fatti bene Aiutano. sono necessari, sì, sono ottimi. Grazie per essere intervenuta, vorrei sentire il parere di Alberto. Ma io sono d'accordo, credo che alla fine potremmo immaginarci il tempo delle vacanze come un tempo che ha sempre dentro del vuoto e come tutti i vuoti ha bisogno di essere riempito. Farlo riempire con un'infinità di schede già decise tutte dall'insegnante o dal libro delle vacanze non è né appassionante né divertente, è un'esecuzione di doveri. Riempirlo invece con la scoperta di cose verso le quali provo interessi che non ho mai provato prima e che vado provando adesso, quest'anno, per la prima volta proprio perché sono in vacanza, credo che sia la cosa migliore che si può fare durante il tempo estivo. Allora, pochi ma buoni, ma per renderli buoni ci vuole metodo. E allora, professor Iannoccari, un mini corso accelerato per passare ai nostri ragazzi, da passare ai nostri ragazzi. Due aspetti, uno per i genitori. Allora, ricordiamoci che far fare i compiti è come far mangiare i figli. Può innescarsi un braccio di ferro, va bene? I figli là possono esercitare il loro controllo sul genitore, per cui cerchiamo di prenderli strategicamente. Due, andiamo in ferie, ma non mandiamo il cervello in ferie. Il cervello deve essere impegnato a fare tante cose, a leggere, a fare nuovi hobby, a imparare nuovi strumenti, ma anche a rimanere concentrato. Questo è un aspetto importante. È sufficiente 10 minuti al giorno. Allora, come fare? Beh, possiamo tranquillamente, ad esempio, soffermarci su una canzone che ci piace, ascoltare attentamente le parole. Vogliamo allenare anche la memoria? Bene, dopo che è finita la canzone, cerchiamo di riprendere il maggior numero di parole che ricordiamo. Vogliamo allenare il ragionamento? Benissimo. Allora, diamo nuovi significati alle parole che abbiamo ascoltato, ad esempio acqua azzurra, acqua chiara. Ecco, allora quali Vedevo sono? che accennava anche, adesso la prossima volta le faccio Non lo fare una farò più. cantata. No, bello, io Non lo adoro farò più. cantare. Ecco, allora quanti sono i significati che può avere quella canzone? Cerchiamoli, così alleniamo il ragionamento. Poi vogliamo invece in qualche modo stimolare la concentrazione? Allora iniziamo a contare all'indietro, per esempio la tabellina del 2 partendo da 20 all'indietro, poi quella del 3, poi quella del 5, 4 e così via. In questo modo si allenano anche i bambini più piccoli a ripassare le tabelline in un modo giocoso E li ripassiamo anche e noi. li ripassiamo anche noi. Oppure contare all'indietro scalando di un numero di 3 in 3 partendo da un numero che non sia della tabellina. Poi, ad esempio, prefissarci la mattina di cercare un target, cioè un elemento nell'ambiente, per esempio tutti gli oggetti di colore rosa. E ogni tanto, per 5 minuti, scorgiamo quello che c'è intorno a noi e cerchiamo quegli elementi. Può essere un colore, può essere un numero, una parola, un tipo di vestito, qualunque cosa. Cioè, tutto ciò che ci consente di focalizzarci, perché seppur noi andiamo in vacanza, il cervello comunque deve mantenere quelle funzioni di base che ci servono poi per quando riprendiamo. Prendiamo per essere performanti, per essere capaci di riprendere senza fatica. Ci ha dato tanti suggerimenti validi per i grandi e per i Piccoli piccoli e per che tutti. possiamo impostare proprio come un Con la gioco, massima con libertà. la massima libertà, proprio come bisogna fare in vacanza, Esatto. liberi. Allora ringrazio Alberto Pellai che ci ha accompagnato in questa puntata. Ciao Alberto, grazie. Ciao e Buone vacanze a tutti. Buone vacanze. Professor Iannoccari, grazie anche per questi preziosi consigli che naturalmente potrete riascoltare sulla pagina di Essere Benessere. Carmelo Lauricelli regia la parte tecnica, lui se la ride perché i suoi bambini sono piccoli, i compiti non li fanno, ma penso che prenderà nota. Laura Vanossi è in redazione, noi ci possiamo salutare, torniamo domani. Se avete dei dubbi, se volete dei consigli, scriveteci anche solo per rimanere in nostra compagnia. Per oggi è tutto, vi saluto, vi ringrazio, vi auguro una buonissima giornata e ci sentiamo domani. Essere e benessere.